Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E parte il nostro Last Minute, parte il programma del Jazz Club Il Torrione, 26esima stagione 2024-2025. In maniera atipica, per due appuntamenti, due settimane, il weekend sarà allungato: giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi già da quest'oggi, 3 ottobre, alle ore 21.30, Immanuel Wilkins, Blues Blood, la presentazione di questo suo lavoro per Blue Note Record. Intanto metto come sottofondo le sue sonorità riprese dall'album uscito di recente, ma essendo lui tanto giovane quanto talentuoso e con voglia di proporre sonorità assolutamente importanti che danno un aspetto molto colto al jazz, danno un aspetto tecnico che è veramente di forbita costruzione. Oltretutto, seppur con un quartetto che vede pianoforte, contrabbasso e batteria, quindi un aspetto di interplay classico, lui è un sax contralto, ha sicuramente una realtà di modern jazz, come vi ho descritto, molto molto capace sia di comunicare che di estendere gli ascolti a un aspetto che va oltre all'immediato. Nell'ultimo referendum dei critici della prestigiosa rivista americana Downbeat, Immanuel Wilkins è stato votato miglior sassofonista contralto, miglior compositore emergente, miglior gruppo jazz con il suo quartetto emergente del 2023. È un riconoscimento che suggella, come vi ho detto in precedenza, una carriera che è iniziata in maniera fulminante del giovane Wilkins, che viene definito, è entrato a gamba tesa sulla scena musicale nel 2020 con l'uscita del suo primo lavoro Omega, debutto discografico per l'interessante e sempre presente Blue Note Record, sebbene avesse appena 22 anni al momento dell'uscita di Omega, il suo primo lavoro, e questo quartetto già da oltre 4 anni aveva motivo di provare nei jazz club e proporre queste sonorità di grande coesione, musicalità e un riflesso sia nella maturità del suono che nella raffinatezza e, come potete ben sentire, profondità delle composizioni. Sono seguiti riconoscimenti e premi da parte della stampa, replicati anche dal successivo che stiamo ascoltando, The Seventh Hand, dove i suoi brani originali in forma di suite si fanno più articolati, allo stesso modo anche complessi, ma come ho detto, un attento ascolto da a un aspetto emotivo di catarsi e un'intensità che connotano anche ovviamente le prove live. Al Torrione presenterà questo nuovo lavoro, sempre per Blue Note, Blues Blood, proiettando quella che è una tradizione afroamericana nella più stretta e colta attualità. Immanuel Wilkins. We'll be right back. Al pianoforte Mika Thomas per un interplay armonico assolutamente molto intelligente, musica afroamericana di moderna composizione, senza dimenticare tutti gli aspetti più classici di un jazz che dà emozione, catarsi emotiva e intensità che viene connotato, potete ben immaginare, da questo assolo che vi ho anticipato in precedenza nelle sonorità del quartetto di Manuel Wilkins. Al sax contralto Wilkins, Mika Thomas al pianoforte, Rick Rosato al contrabbasso, Kweku Sumri alla batteria. Un'altra grande stagione al Torrione, che dire, ne parleremo poi domani in maniera più approfondita nel Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30. La partenza per due weekend allungati che partono da giovedì, già da questa sera, sarà un giovedì bagnato a Ferrara, ma è anche un giovedì di grande classe, grandi talenti e grandi composizioni musicali in un ambiente straordinario dalle ore 21.30 nel Jazz Club Estense per la 26esima edizione. Nella prima parte di espressione artistica, musicale, di aggregazione culturale, e già da queste note la presentazione poi che sarà di Blues Blood, il brano che segue invece inerente ancora The Seventh Hand. Avrò modo questa sera e mi auguro che ci sia la possibilità di acquistare anche il disco in presentazione, e avremo modo poi di portarlo nel Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30, oltre che presentare tutta la programmazione del Jazz Club Ferrara. Estremamente a suo agio Emmanuel Wilkins al contralto su queste reiterazioni ritmiche, direi in questo caso afroamericane, perché nelle percussioni che stiamo ascoltando da Kweku Sumbro una capacità, già da comunque l'etimo del nome di questo batterista, indubbiamente un'appartenenza di radice afro c'è, cioè, e come la sentiamo nell'espressione che ancora è come base sotto le mie parole. Il volo del contralto accompagna tutto ciò, la presentazione del disco nuovo, ancora ovviamente non l'ho ascoltato, spero che sia a disposizione già da questa sera per un pubblico attento al Torrione, e la prima serata alle 21.30 con Emmanuel Wilkins Quartet, presentazione del disco per Blue Note Records, Blue Blood. Abbiamo ascoltato da The Seventh Hand i primi primi due brani, il secondo Don't Break e il terzo che sto mettendo, che ci accompagnerà alla pubblicità, Fugitive Ritual Selah. E questo appunto è la conclusione di un last minute in jazz che dà anticipazione all'apertura del Jazz Club Il Torrione. A tra poco, per andare in mostra, per cominciare a viaggiare, per una esposizione che ci porterà lontano. A tra poco, buon ascolto. Mm-hmm.